C'è un bianco di occhi nel buio e notte, notte nera all'intorno. C'è una mano che cala sugli occhi a chiudere i sogni, a cancellare il ritorno. Ci sono corpi che si stendono lenti come pesanti cordami, gambe che si sciolgono frementi e mani che s'avvinghiano a mani. C'è una voce che bussa alla porta, un rumore di passi lontani. C'è chi cerca di scacciare quei sogni come mosche levando una mano. C'è chi nasconde la faccia tra le piaghe tumide del ricordo. Chi sul fondo del fondo si schiaccia per scivolare in acque più scure. Fuori bordo. Traggo magri e tremanti nei loro sogni tra le mie braccia. Io che li vedo gettare sempre uno sguardo vinto all'indietro, mentre sbarcano con le loro coperte strette addosso. A volte penso a San Pietro che lasciava vedere boccheggianti quelle anime che strappava al mare. Dentro reti di speranze, di sogni, e di sogni che non fanno svegliare. Io di ciascuno di quei volti vorrei portarmi addosso un'istantanea, vederli sparire adesso sotto le arcate d'un centro d'accoglienza temporanea. Vedere quei volti e quelle mani trascinate ad un burocratico auto da fè mi direbbero: non c'è casa, non c'è ritorno, non c'è domani. E mi sarebbe allora forse più facile, forse mi sarebbe più facile allora prendere il largo da te.